Essere e avere di Maria Luisa Pezzali. Ben ritrovati e buon Natale da Maria Luisa Pezzali. Quella di questa sera non poteva che essere una puntata speciale. Abbiamo cercato un indicatore, uno solo, che ci fornisse l'occasione di riflettere insieme sugli eventi, i fenomeni, le tendenze del mondo dei consumi, dei media e della comunicazione in generale. Un indicatore in grado di raccontare le persone e le loro abitudini, così come i personaggi e i fatti che segnano e in certi casi anticipano il cambiamento. L'indicatore che abbiamo scelto è Google Year in Search, cioè le parole più cercate su Google nel 2016 dagli italiani. Sarà contenta mia madre che mi dice sempre: esci di casa che giochi sempre ai videogiochi, adesso c'ho un motivo per farlo. Let's go! Ok ragazzi, ci siamo, allora, ho avviato adesso... Sì, però stai calmo. Ricorda, durante il gioco presta sempre attenzione all'ambiente che ti circonda. Sì, perché adesso mi lancio in mezzo alla strada mentre passa tipo un Gyarados sul marciapiede, va bene. Ma qua c'è l'erba, qua non c'è l'erba, questo gioco mente. C'è Dodrio qui? Sì, ma io come incontro i Pokémon? Devo andare in giro? Va bene. Usciamo. Ok ragazzi, sto camminando. Ciao Fabi. Ebbene sì, il fenomeno del 2016 è stato Pokémon Go, in cima alle parole più cercate su Google, meglio quelle che hanno registrato la crescita maggiore rispetto al 2015, è questa la metodologia. Nella clip abbiamo sentito Favi J, youtuber che si conferma tra i più seguiti, come rivela un'altra classifica, quella dei video più visti su YouTube. Mai come quest'anno la ribalta è degli youtuber, da Scottex a Sofia Viscardi, passando per Favi J, appunto, The Jekyll e Clio Makeup. Pokémon Go, dicevamo, in cima alla lista, a seguire le Olimpiadi, gli europei e le elezioni americane. Le parole emergenti sono quelle che hanno fatto tendenza, ci spiega Emanuela Locci di Google Italia. Year in Search registra i termini emergenti, che sono quelli che hanno fatto registrare il maggior incremento nelle ricerche nel corso dell'anno, quindi nel corso del 2016, rispetto al 2015. Quindi non sono il maggior numero di ricerche in assoluto, ma sono i trend emergenti nell'anno, quindi quello che ha fatto tendenza. La categoria principale, quella delle parole emergenti, svetta il fenomeno Pokémon Go. Sì, esatto. Diciamo che l'estate ha fatto registrare un vero picco di ricerche e infatti, come dicevo prima, i trend emergenti, l'anno scorso non esisteva questo trend in termini di gioco, in termini di applicazione, infatti è al top delle ricerche, nelle sue varie declinazioni, la app, i trucchi per trovare i protagonisti, seguito dallo sport, che è sempre una tendenza molto alta nelle ricerche su Google. Al secondo posto troviamo le Olimpiadi di Rio, è stato un anno particolarmente sportivo, e al terzo troviamo infatti anche gli europei di calcio 2016. Se noi andiamo avanti a scorrere la classifica, ci sono fatti di cronaca anche molto tristi: il terremoto al quinto posto, le elezioni statunitensi al quarto, però c'è anche tanta TV, tanti personaggi. Sanremo 2016 quest'anno ha registrato una particolare attenzione, si trova al sesto posto delle parole emergenti e purtroppo è seguito anche da dei grandi artisti che ci hanno lasciato quest'anno. Infatti al settimo posto troviamo David Bowie, al nono Spencer. Ritornano le elezioni politiche, le elezioni presidenziali, scusate, con Donald Trump, e non poteva che chiudere la classifica un termine nuovo, che è la Brexit. In cima ai personaggi più cercati, lo abbiamo sentito, David Bowie, il Duca Bianco, scomparso quest'anno insieme ad altri grandi artisti come Prince, che ritroviamo infatti al sesto posto della categoria personaggi emergenti. E molti tra i più digitati sono cantanti, ecco perché ne abbiamo parlato con Gianni Sibilla di Rock Hall. Non mi stupisce questo risultato. La musica era sempre una delle cose più cercate su Google. Quest'anno è stato un anno disgraziato per molti motivi e per la perdita di alcuni giganti della musica. Se mettiamo assieme le due cose è abbastanza inevitabile vedere tra i termini di ricerca più cercati David Bowie o Prince. La gente si ricorda di grandi artisti soprattutto in queste circostanze. Una presenza anche legata a Sanremo per alcune di queste parole, perché c'è Ezio Bosso che si è rivelato, come dire, al grande pubblico proprio in quell'occasione, e poi Patti Pravo, piuttosto che due personaggi che non sono musicisti come Gabriel Garco e Virginia Raffaele, ma che comunque insomma sono stati tra i protagonisti dell'evento musicale. Che se ne dica, Sanremo è sempre l'evento per eccellenza della televisione italiana, e non solo, perché come sappiamo va molto oltre la televisione, e quindi è un luogo dove non soltanto ascoltiamo le canzoni, perché è più un evento televisivo ormai che musicale, ma soprattutto scopriamo nuovi personaggi. E credo che di questi artisti e personaggi che hai appena citato, la cosa più eclatante e interessante sia stato Ezio Bosso. Vedere quella sua performance è una cosa che ha lasciato a bocca aperta tutti. La musica è una fortuna che condividiamo. Noi mettiamo le mani, ma ci insegna la cosa più importante che esista: ascoltare. Vedere la sua umanità, la sua condizione, la sua capacità di andare oltre la sua condizione è stata una cosa veramente toccante, e quindi inevitabile nel secondo immediatamente successivo fare la domanda: chi è Ezio Bosso? E scriverla su Google. L'abbiamo visto anche noi direttamente a Rock Hall, perché abbiamo subito provato a spiegare chi era quel personaggio, e molta gente è arrivata proprio dei motori di ricerca su di noi a cercare di avere informazioni su di lui. Come il mondo digitale e il mondo dei social ha cambiato, al di là della fruizione, anche la cultura musicale in questi anni? Domanda da $1 milione. Evidentemente oggi ascoltiamo la musica in maniera molto diversa, non soltanto a livello di supporti e di hardware per ascoltarla, ma proprio a livello di informazioni. Oggi la musica è molto più accessibile, e sono molto più accessibili le storie che girano intorno alla musica. Questa cosa che ho appena raccontato lo dimostra. Voglio dire, se 20 anni fa avessimo visto un personaggio a Sanremo che ci colpiva particolarmente, sapere chi era in tempo reale sarebbe stato praticamente impossibile. Oggi sicuramente chi ascolta musica ha la possibilità di incrociare informazioni, dati, scoperte. Idolatria. Dal greco eidolon, cioè idolo, e latreia, cioè culto. Forma di religione basata sull'adorazione degli idoli. In senso figurato, culto, amore, attaccamento viscerale per qualcosa o qualcuno. In molti avete cercato su Google il significato della parola idolatria in cima alla categoria cosa significa, l'espressione con cui interroghiamo il motore di ricerca quando non siamo sicuri di cosa voglia effettivamente dire una parola. Una ricerca di senso, diciamo così, della contemporaneità, che passa anche dai grandi eventi come la Brexit, di nuovo al terzo posto, dalle parole del web, taggare e petaloso, rispettivamente al sesto e ottavo posto, e della TV, Gomorra, al nono posto, fino alle tendenze nei consumi, cosa significa vegano, e al settimo posto il sociologo Francesco Morace. Alcune cose mi hanno stupito, ma sono molto interessanti, a partire dalla prima, insomma, idolatria, no? È un po' il segno di un tempo in cui probabilmente cerchiamo nuovi eroi, nuovi idoli e cerchiamo anche di capire esattamente cosa si intende, no? con questo termine, mentre è chiaro che, non so, Brexit piuttosto che Gomorra sono molto più legati a, diciamo, alla cronaca politica e al mondo dell'immaginario, insomma, televisivo o letterario, ecco, quindi alcune cose sicuramente sono prevedibili, altre molto meno, come ad esempio ad maiora, che è un altro termine, probabilmente una ricerca di erudizione o di comprendere magari termini che hanno un significato forse anche un po' natalizio, insomma, no? Cioè tempi migliori, in qualche modo speriamo tutti di averli. Scisma, secondo te perché trova spazio una parola del genere? Ma io credo che soprattutto questi ultimi mesi siano stati mesi di grandi divisioni, no? Anche di grandi contrapposizioni, quindi l'idea dello scisma, che è di una radicalizzazione del pensiero e anche di una contrapposizione, forse è un tempo dei no, forse più che dei sì, ecco, allora forse scisma, ricondotto anche a momenti storici, insomma, della religione e del pensiero, forse segnala proprio in questo momento bisogno di dividere più che di unire e di capire anche meglio che cosa ci porta a dividere. Non solo grandi eventi, ma anche i fenomeni del web, le curiosità, uno spazio a parte occupano Petaloso oppure Taggare, insomma, due fenomeni connessi proprio all'uso della rete. Certamente, quindi da un lato questa idea di usare il digitale mettendo in relazione immagini, persone, quindi insomma il taggare è una parola ormai entrata nell'uso comune, ma magari tante persone vogliono capire anche meglio che cosa significa, mentre Petaloso è, insomma, il tipico elemento, diciamo, di curiosità e il tam tam che è partito con appunto questo bambino che si è inventato un nuovo termine, perfino l'Accademia della Crusca se ne è occupata inserendolo tra le parole dell'anno. Quindi sicuramente questo è un elemento significativo anche qua della cronaca culturale del nostro paese. Il nostro viaggio attraverso le parole, i personaggi, i fatti più cercati su Google nel 2016 prosegue tra pochissimo, subito dopo la pausa. Restate con noi. Roma-Napoli, in auto con un'amica, io, lei e il Sistema Digital Radio. Accendiamo la radio? Hai detto radio? Te la faccio ascoltare in digital. Cioè? Sulla mia auto puoi ascoltare i programmi che ami di più con il suono perfetto. Grazie alla digital radio. Ce l'ho anche a casa. Tu no? Se ami la radio, muoviti a provarla in digital, in auto e a casa. Digital radio. Il suono perfetto. DAB Plus. Anche Radio 24 è in digital radio. Creo Kitchens, finalmente la cucina di qualità, ora alla portata di tutti. Gruppo Lube. Vi presenta Essere e Avere. Una mia opinione sul tiramisù. Il tiramisù è il dolce della famiglia italiana. Potrei dire che è il dolce dell'amore vero, quello che non finisce mai, delle mamme, di quelle che ti preparano con cura ogni cosa. Difatti, non c'è mamma nella storia che non abbia sbattuto il tuorlo d'uovo con lo zucchero e nel nord hanno sempre messo un po' di caffè e di biscotti, mentre nel sud un po' di marsala. E gli dicevano ai bambini, mangia questo che ti tira su. Ed è il tiramisù invece a svettare tra le ricette più cercate su Google nel 2016, uno dei dolci simbolo dell'Italia nel mondo, uno dei più amati in assoluto. Abbiamo commentato le 10 ricette insieme a Alessandro Vannicelli, food blogger, ideatore di schisciando.com. Non mi stupisce affatto, anche perché penso che sia la ricetta più cliccata in assoluto e ti svelo anche una curiosità, visto che io lavoro anche in comunicazione, ci sono molte aziende che investono tantissimi soldi per essere posizionate nei primi risultati su Google per tutto quello che è il materiale per fare il tiramisù. Poi scorriamola insieme: la peperonata, le zucchine in carpione, il pane sardo e un cult del Natale, il panettone gastronomico. Mi ha stupito tantissimo il pane sardo e le zucchine in carpione, mentre sul panettone gastronomico diciamo che ci avrei scommesso, perché comunque si è, anche se è un classicone che fa molto anni 80, penso che sia sempre sulle tavole di ogni famiglia che si rispetti. Al sesto posto un solo prodotto con due tendenze in una, diciamo così: panini integrali morbidi, quindi i panini, la grande riscoperta del pane, pensiamo a tutto il mondo del lievito madre, eccetera, esatto. E l'integrale, insomma, questa grande riscoperta delle farine grezze. E diciamo che adesso c'è un fiorire, soprattutto cioè io vedo molto su Milano la nascita di panettieri che usano tantissimo la scoperta di nuovi semi piuttosto che farine ricavate da cereali antichi. E sul lato dei panini integrali morbidi mi viene anche da richiamare un po' tutto quel discorso legato anche alle hamburgerie che usano questo tipo di pane lievitato e non con nuovi cereali. Mojito, pasta alla norma, friggione. Che cos'è il friggione? Il friggione, sai che è una cosa che ha stupito anche me. Sono davanti al computer, andrei anche a vederlo insieme a te. Facciamolo. Cioè, allora, ricetta del friggione, che io ammetto di non conoscere, è una specialità regionale bolognese. A base di cipolle bianche e pomodori pelati, se è questa, però penso di sì. Per il 2017 tutti a fare il friggione, io per prima. E poi vabbè, al decimo posto non poteva che esserci, insomma, nella top list la matriciana, che è stata la ricetta, come dire, che ha condensato in un prodotto la solidarietà per le popolazioni colpite dal terremoto. Esatto, quella io me l'aspettavo, a parte che io lo definisco sempre un piatto misto, per cui in generale sono più che felice che questa tendenza sia confermata anche da questo aspetto positivo nella disgrazia del nostro paese. What I would do to take away this fear of being loved, allegiance to the pain. Now I fucked up and I'm missing you. Ma al web e ai motori di ricerca ci affidiamo anche per soddisfare le curiosità e gli interrogativi di tutti i giorni. Tra i perché che hanno fatto tendenza svetta perché si intasa il braciere, e non chiedetemi il perché, è il caso di dire. Le risposte a questo, come ad altri dei perché di tendenza, hanno molto a che fare con l'irrazionalità, e allora non potevamo che affidarci a Luciano Canova, economista, insegna alla scuola Enrico Mattei all'Università di Pavia, l'autore di Scelgo dunque sono, guida galattica per gli irrazionali in economia. Da un lato viene fuori una ricerca di una funzionalità spiccia che ovviamente internet offre. Adesso citiamo il grandissimo Salvatore Aranzulla, che praticamente sostituisce un principio teologico, il senso laico, come soluzione a qualunque tipo di problema. Ma in generale, appunto, mi soffermerei sul fatto che davvero internet sta diventando una sorta di surrogato laico di un principio trascendente. La ricerca di un perché fa parte del DNA umano, è avere un motore di ricerca che ti consente comunque di trovare risposta a quello che è veramente insito nella nostra natura di essere umani. Cercare una spiegazione, una giustificazione a tutto, mostra appunto questo tipo di irregolarità. Sul discorso del braciere direi che si tratta di una funzionalità in senso spiccio, quindi sostanzialmente magari per una questione di incidenti c'è una forte regolarità nel fatto che le persone cercano soluzioni tecniche a problemi che prima magari avrebbero richiesto l'intervento di una terza persona. Poi c'è di tutto, c'è la scienza perché i terremoti avvengono di notte, ecco. C'è la politica perché Trump ha vinto, c'è anche il gossip perché Belen e Stefano si sono lasciati, c'è veramente la fiducia nel web per tutto, la fede, ecco, come dici tu. Infatti mi porta, infatti è una forma di fede laica che ha, come dire, un principio positivo rispetto al fatto che comunque andiamo incontro a un tempo di forte responsabilizzazione, secondo me, individuale, proprio per il fatto che comunque le persone hanno degli strumenti che prima non avevano a disposizione. Dall'altro, diciamo così, da scienziato sociale, e lo dico tra virgolette perché gli economisti sono sempre visti come degli scienziati di serie B, mi preme fare un appunto. Questo appunto è che, e qui mi collego alla letteratura dei big data, perché alla fine Google è un enorme collettore di richieste e quindi è proprio un motore continuo di collettore di questi dati. Diciamo che la domanda giusta da fare a Google non è perché, ma è che cosa, nel senso che sostanzialmente i big data individuano delle regolarità. E il problema, forse anche le varie ricerche che tu citavi, mostra che invece le persone cercano la risposta sbagliata che Google non ti può dare. Il perché non arriva, non può arrivare da internet, arriva anche attraverso i dati che sono raccolti su internet, ma richiede l'investigazione scientifica. Internet e i big data consentono di trovare delle correlazioni, e infatti secondo me in quest'epoca di post-verità il problema, l'equivoco sta anche un po' lì. Le persone prendono fischi per fiaschi o cominciano a rendere virali delle notizie che non hanno un contenuto di verità. Hai anticipato uno dei temi che sarà il grande tema del 2017, quello della post-verità, e ti prenoto già, Luciano, per una prossima puntata in cui andiamo ad approfondire questo tema. E poi quella che era la mia domanda finale: ci affidiamo appunto alla rete per ogni risposta, quindi la rete diventa un enorme collettore di big data, ma vanno interpretati, non solo raccolti. No, no, assolutamente. Infatti il rischio è quello appunto di togliere la mediazione, che comunque la mediazione dell'esperto rimane importante. I dati sono una miniera, sono una risorsa, e quindi anche internet è indubbiamente una risorsa, però un conto è davvero cercare una soluzione all'intasamento del braciere, un conto è cercare sul web la risposta al perché avvengono fenomeni importanti come può essere la vittoria di un'elezione. Il web è sicuramente in grado di dirci, di individuare un trend, di individuare delle regolarità, e ci sono degli scienziati che analizzano quei dati per dare risposte scientifiche. Il rischio è appunto quello che invece una persona si assuma un po' il diritto di essere in grado di interpretare da sé le regolarità, ma di nuovo equivocando il che cosa con un perché. È veramente un istinto che abbiamo a trovare sempre una giustificazione, una spiegazione a tutto, ma la rete il perché non ce lo può dare. Christmas night, another fight, tears we cried a flood. Sotto la voce biglietti, facile prevederlo, in questo caso il secondo posto spetta ai Coldplay, alla polemica sul secondary ticketing, cioè il bagarinaggio online, superato però, questa sì che è una sorpresa, dalla Lotteria Italia 2016, evidentemente ancora molto radicata come abitudine, molto più di quanto si pensi. Al decimo posto il fenomeno della passerella sul Lago d'Iseo firmata Cristo. In molti hanno evidentemente cercato online biglietti che in realtà non esistevano, perché l'esperienza era totalmente gratuita e senza prenotazione. Questo spiega le code e le attese chilometriche. Chi ci è andato lo sa bene: regina delle mete per le vacanze Corfù, seguita da Pantelleria. Tra gli eventi svettano le Olimpiadi, ma anche i fatti tragici del 2016, dal terremoto agli attentati di Nizza e Bruxelles. Una riflessione a parte merita invece la categoria come fare, dalla cucina al fai da te, con qualche sorpresa. L'abbiamo commentata con Paolo Ferrarini di Future Concept Lab. Sempre di più noi consideriamo internet come un assistente personale, come se fosse la segretaria perfetta, come se fosse l'assistente ideale. Noi chiediamo, adesso addirittura lo sappiamo benissimo anche con i nostri strumenti mobili, non dobbiamo nemmeno più digitare, chiediamo, abbiamo tutti gli assistenti vocali che ormai stanno raggiungendo dei livelli di qualità e di capacità di ascolto, anche mi verrebbe da dire, piuttosto singolari, pensiamo ad Alexa, Siri, Deep, Google, eccetera, eccetera. Aggiungiamo anche il fatto che la nostra memoria si sta un pochino impigrendo, che sia la quantità di zucchero di una ricetta, che sia il tipo di carta che ci serve per fare i fiori con i bambini, però chiediamo per sicurezza, per cui la memoria digitale molto spesso è più lunga e più affidabile della nostra memoria organica. C'è lo spritz, c'è la cucina ovviamente, ma c'è anche tutto il mondo how-to, quindi tutorial, il fai da te. Lo vediamo appunto nei fiori di stoffa, nello slime fatto in casa. Ci piace imparare, questo bisogna dirlo, eh. Ci piace imparare anche a fare cose nuove, ci piace scoprire, e anche qui che sia il video, che sia l'indicazione, che sia l'articolo, è qualcosa di estremamente rilevante. Pensiamo anche a una cosa, parlando di comunicazione, un argomento che insomma abbiamo trattato parecchio nel corso di questi mesi, a molte aziende piace mostrare come fanno le cose. Pensiamo a tutti i vari backstage video, i video di produzione, da come viene fatta una matita a come viene realizzato un capo di alta moda. Quindi magari delle cose anche semplicissime, fino ad arrivare a cose ipercomplesse, per scatenare il famoso wow effect, la meraviglia che poi eventualmente fa scattare anche la condivisione, insomma il meccanismo che la comunicazione cerca di adoperare sempre di più. Al quinto posto, come fare una sonometria? Anche tutto il mondo dell'insegnamento, della didattica in questo momento passa dalla rete in versione sharing, ovviamente di condivisione delle conoscenze, anche questa è una tendenza molto in evidenza. Sicuro, proprio perché anche la rarità dell'informazione e della conoscenza diventa un elemento sicuramente molto importante. Proviamo a pensare a quante biografie di scienziati vediamo ad esempio nelle librerie oggi, a quante storie legate alla scienza troviamo al cinema. Ecco, sono degli elementi che ci danno certezze, comunque la scienza non ci tradisce, o almeno è ancora percepita come uno di quei settori in cui ci sono delle basi molto solide. L'economia non è mica più tanto affidabile, altri campi diventano non un punto di riferimento. Ecco, la scienza sta diventando sicuramente uno dei, o comunque si conferma essere uno degli ambiti in cui ci appoggiamo per avere delle certezze. Finisce qui questa puntata speciale di Essere e Avere. Grazie in regia a Gianmarco Ferronato e Carmelo Lauricella. Da Maria Luisa Pezzali di nuovo un augurio di buone feste. A domenica prossima.